Che tanto se anche fosse dal mio cranio rotto non ne verrebbe fuori mica vino rosso, ma solo il tuo pensiero su di me è riflesso, arrugginito dentro come un chiodo fisso. Fuggire o so restare, per questo senza avere paura di cadere. Giù, giù, giù. Io non lascio traccia come pioggia sulla neve. Quando cado mi confondo con quello che già c'è. Si scioglie la mia faccia e nel fango dei ricordi. Quando io mi confondi con quello che già c'è. Questo non sono io.